as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e le Rose, 103.1 FM, Radio Città Fujiko, la trasmissione degli operai metalmeccanici e non solo. Oggi siamo confederali e di base. Oggi abbiamo con noi Domenico Conte dell'USB Emilia Romagna, un amico oltre che essere un compagno, e lui ci parlerà dello sciopero del 2 dicembre e della manifestazione del 3 collegata allo sciopero. I sindacati di base hanno dichiarato guerra alla guerra, ai padroni, a questo governo, come l'hanno fatto anche in passato verso gli altri governi, e hanno dichiarato finalmente lo sciopero generale. Uno sciopero dovuto, io credo, e spero che anche gli altri sindacati facciano la stessa cosa. Stiamo aspettando lo sciopero dell'industria, noi metalmeccanici della FIOM, da qualche settimana. Speriamo che arrivi presto. Adesso un bellissimo pezzo musicale, poi ci sentiamo con Domenico Conte. Ah, dimenticavo, ascolterete Somebody News, Mr. Jukes. Continuiamo con la musica, insomma, un po' più sofisticata, quella che piace a noi, ok? Ascolterete altri due pezzi davvero simpatici e carini e molto, molto particolari. She wants to wipe her tears on my cold shoulder. I've tried, but I can't keep on telling her it's over. She's been crying almost for 3 months stuck in bed, drinking red dead. Venerdì 2 dicembre, sciopero generale dell'USB e di tutto il mondo dei sindacati di base. Da quello che ho visto, ho letto il comunicato, mi pare che ci siano tutte Vabbè, se manca qualcuno, diciamo, non se ne accorge nessuno. Ci sono tutti i sindacati di base, così come avevate promesso, l'Unione sta tenendo dei sindacati di base, e credo che sia il primo sciopero generale contro il governo Meloni e contro i padroni, chiaramente. Ci sarà un presidio anche qui a Bologna, ho letto, ci spiegherai, insomma, tutto, darai le informazioni nella intervista a chiunque volesse aderire allo sciopero e volesse venire al vostro concentramento. Insomma, quali sono le ragioni di questo sciopero e perché adesso, in questo momento, e parlaci un po', insomma, della piattaforma. Ho visto che è una piattaforma molto interessante. Intanto grazie per lo spazio che ci viene concesso. Sì, come dicevi, tutte le organizzazioni del sindacalismo di base hanno indetto uno sciopero generale intercategoriale per la giornata del 2 dicembre prossimi, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, dalla sanità alla scuola, all'istruzione, passando poi per le fabbriche e i trasporti. Aggiungo che il giorno successivo, il 3 di dicembre, è stata proclamata da alcune organizzazioni sindacali che hanno lanciato lo sciopero del 2, una manifestazione a Roma il giorno successivo. L'obiettivo è quello di costruire una 2 giorni di lotta dove al centro sicuramente ci sarà il lavoro, ma anche per cercare di porre l'accento sulla situazione difficile che sta attraversando il nostro paese dal punto di vista economico e sociale. Come sappiamo, siamo alle prese col governo Meloni, che ci sta trascinando sempre di più dentro una spirale di guerra dagli esiti imprevedibili. Infatti i soggetti belligeranti in campo ad oggi non danno nessun segnale che vada nella direzione di una fine delle ostilità, di un cessate il fuoco, quindi nessuna volontà di costruire dei percorsi negoziali che possano portare alla pace. E noi sappiamo bene che le guerre le pagano le popolazioni civili sulle loro pelle, così come nei paesi belligeranti le classi popolari e le fasce più deboli della popolazione che ne subiscono le conseguenze economiche che la guerra porta con sé. E l'Italia è evidentemente parte in causa e attiva nel conflitto, è un paese belligerante, e questo nonostante la grande maggioranza della popolazione sia contraria non solo alla guerra, ma anche al conseguente forte aumento delle spese militari. Per sostenere queste ultime ci si chiede di aderire a un'economia di guerra che si colloca in piena continuità con l'operato del precedente governo Draghi e più in generale con tutti gli esecutivi che in questi anni ci hanno chiesto di pagare con l'austerità i costi di crisi che non abbiamo creato né voluto. Mentre i salari, le pensioni e i redditi da lavoro e gli ammortizzatori sociali sono al paro da anni. Il fortissimo aumento dei prezzi, invece, per tutti i beni e servizi essenziali produce un peggioramento generalizzato delle condizioni di vita. Ormai arrivare alla fine del mese è diventato davvero un'utopia. E in questo contesto è inaccettabile che la gran parte dei sostegni vada alle imprese, alle grandi imprese, oltre a tutto quello che abbiamo ascoltato in campagna elettorale e che ci verrà riproposto ovviamente nelle prossime agende politiche. Flat tax, taglio del cuneo fiscale, la cancellazione del reddito di cittadinanza, la riduzione dei servizi pubblici, la controriforma della scuola e gli ulteriori tagli alla sanità. Sono questi alcuni temi che sono sul tavolo dell'attuale governo. E tutto questo invece che colpire i grandi profitti e i patrimoni accumulati per decenni. E le risorse ci sono, come dimostra la vicenda dei 40 miliardi di extra profitti ottenuti con la speculazione sul prezzo del gas, e vanno messe a disposizione dei salari, pensioni, per aumentare il reddito degli strati sociali più colpiti dalla crisi, in primis i precari e i disoccupati. Anche le promesse avanzate nei mesi scorsi sul tema della conversione ecologica si sono tradotte in progetti di installazione di nuovi rigassificatori e inceneritori in diversi territori, utili solo al business dei soliti noti e non certo alla salvaguardia dell'ambiente. Si comincia a parlare di grandi opere inutili, come il ponte sullo stretto, mentre scuole, università, strutture sanitarie, Territori stravolti dal dissesto idrogeologico, dal cambiamento climatico e dalla speculazione cadono e franano letteralmente l'Italia in testa alle persone che le attraversano. E in poche settimane il nuovo governo ha pienamente svelato la propria natura, reazionaria, con l'attacco ai diritti e alle agibilità democratiche, la criminalizzazione degli immigrati e un ulteriore inasprimento della repressione del conflitto sociale e sindacale, come dimostra l'introduzione del codice penale del reato di occupazione abusiva e raduni illegali, che rafforza e generalizza le norme repressive già esistenti. Questo è lo scenario in cui si colloca la nostra iniziativa di mobilitazione generale. Abbiamo individuato alcune parole d'ordine attorno a cui costruire questa grande giornata di mobilitazione e di sciopero del 2 e la manifestazione anche del 3. Pensiamo che non sia più rinviabile una discussione sul rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e col recupero dell'inflazione reale. Chiediamo un'introduzione per legge di un salario minimo almeno di 10 euro l'ora, così come chiediamo la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, incameramento degli extra ricavi maturati dalle imprese petrolifere di gas e carburanti. Chiediamo anche una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario, nonché il blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina, mentre invece chiediamo investimenti economici per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito per disoccupati e sottoccupati. Chiediamo inoltre di fermare le stragi di lavoratori e introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Dall'inizio dell'anno sono quasi 1000 già le persone che hanno perso la vita lavorando. E anche questa è una piaga sociale, una vera e propria guerra che viene combattuta quotidianamente e di cui quasi nessuno ormai parla o ci fa caso. Sono queste le ragioni, alcune delle ragioni dello sciopero. Ci auguriamo naturalmente la più ampia partecipazione di lavoratori e lavoratrici, sia allo sciopero del 2 che vedrà delle costruzioni di manifestazioni territoriali, e sia una grande partecipazione auspicabile anche naturalmente per la manifestazione del giorno successivo del 3. A Bologna si dispiegherà un grande corteo cittadino che partirà dalle 9.30 con concentramento in piazza 20 settembre, attraverserà le strade della città e confluirà poi attraverso varie tappe, vari percorsi in piazza Maggiore, dove si terranno delle iniziative conclusive. Grazie. Allora, lo slogan "abbassate le armi e alzate i salari" io penso che sia veramente bello, lo dico, è giusto, corretto. Soprattutto lo sciopero pone dei temi interessanti, come tu hai spiegato. Una delle cose che ho notato è che finalmente si parla di scala mobile, qualcosa che noi comunque ne stiamo discutendo al congresso, in CGL chiaramente, e spero che se ne parli sempre di più. È visto come una specie di utopia, ma in realtà aumentare i salari in base all'inflazione, ricordiamo che il salario minimo in Europa, questo è già previsto in moltissimi paesi, noi non abbiamo nemmeno il salario minimo, e questo è un problema serio. È vero che la scala mobile ormai è rimasta solamente in Belgio, però il salario minimo indicizzato in base all'inflazione, questo c'è in tantissimi paesi. Allora, su questi argomenti, sulla scala mobile, l'aumento dei salari e soprattutto sulla questione della guerra, chiaramente l'USB si è speso insieme ad altri sindacati di base da tanto tempo contro questa guerra, ci sono state manifestazioni. Parlaci anche di questi due aspetti, perché comunque sono gli aspetti principali, no? Della questione. Sì, beh, è chiaro che il tema del salario è un tema assolutamente centrale, veramente è un tema che ha carattere emergenziale. Se pensiamo che attualmente il salario medio di un lavoratore a tempo indeterminato è di circa 1.550 euro, che un operaio medio al netto percepisce un salario di 1.350 euro, una commessa di magazzino 1.100 e un operatore sociosanitario 1.000. Milioni di lavoratori resi poveri, a cui si aggiungono 3.700.000 lavoratori in nero, il cui sfruttamento produce il 4,5% del PIL. Tra questi non ci sono addetti, solo addetti al turismo, badanti o pulitori, ma anche moltissimi lavoratori dei servizi dell'industria, della manifattura e dell'agricoltura. E qui basta leggere i rapporti dell'OCSE e di altri enti internazionali che hanno certificato quello che era già evidente da anni, cioè che i salari italiani sono fermi da decenni e sono tra i più bassi in Europa. In particolare, a fronte di un aumento di produttività di circa il 20% negli ultimi 30 anni, abbiamo nel rapporto tra retribuzione e costo della vita un bel segno meno in Italia, meno 2,99, siamo l'ultimo posto tra i paesi più industrializzati, e pensare che il penultimo è la Spagna, che comunque negli ultimi 30 anni ha avuto un incremento dei salari del 6%. Quindi diciamo che all'interno di un contesto generale l'Italia è un paese, il paese che tra i paesi più industrializzati è il paese che ha maggiore sofferenza dal punto di vista del salario. Ma ci sono delle ragioni precise perché questo è accaduto in questi anni. Intanto bisogna dire che siamo alle prese con dei CCNL, dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che sono sottoscritti da CGL, CISL, UIL, UGL e Confindustria, e che hanno introdotto negli ultimi anni l'indice IPCA, depurato della componente energetica. E siamo quindi di fronte a un modello contrattuale che lascia erodere i salari dall'inflazione. Ad esempio, con un'inflazione che viaggia oltre il 10%, oggi l'IPCA è stimato al 4,7%. Se si applica questo meccanismo, la perdita dei salari è certa, tanto più di fronte alla recessione prospettata per il 2023. Quindi siamo alle prese, come dire, con una, definirei una patrimoniale sui salari. La politica dei bassi salari nell'arco degli ultimi 30 anni ha ridotto gli stipendi, appunto, come si diceva, con un aggravamento ulteriore nel biennio 21-22, un furto di migliaia di euro e un impoverimento reso palese dalla crescente difficoltà dei lavoratori a far fronte alle spese primarie. L'inflazione infatti non è uguale per tutti. L'aumento delle tariffe, affitti, mutui, alimenti e cure, ossia delle spese vitali, investe in maniera dissennata i redditi più bassi e le famiglie economicamente più fragili. La guerra, che la maggioranza dei lavoratori non vuole, è stata l'occasione per una colossale speculazione sui prezzi, ed in particolar modo dell'energia e per aumentare le spese militari. I bonus del governo Draghi e del governo Veroni sono delle operazioni demagogiche che spacciano per aumenti liberalità che le aziende possono decidere di dare o non dare. Occorre rompere quindi questa gabbia contrattuale dei bassi salari, che nega ogni forma di emancipazione sociale e che rende i lavoratori una merce a perdere. La ricchezza è prodotta dai lavoratori e deve tornare a loro come salario e pieni diritti. E quindi per queste ragioni, come dicevi anche tu, vogliamo aumenti salariali che superano l'inflazione reale, che oggi corre oltre il 10%. Vogliamo la reintroduzione della scala mobile che leghi il salario all'andamento dei prezzi, e vogliamo l'introduzione del salario minimo per legge a partire da 10 euro l'ora. E a tutto questo ovviamente si aggiunge la volontà e il desiderio di un futuro di pace, che è la condizione essenziale per poter mettere fine a questa macelleria sociale. L'ultima domanda che vi facciamo è la manifestazione. Io penso che anche qui la scelta di fare lo sciopero generale, la manifestazione, che ha un carattere politico e racchiude tutte quelle forze politiche che in Italia condividono queste esigenze che voi avete espresso, che sono esigenze sacrosante contro le privatizzazioni di cui avete parlato, per aumentare i salari, contro un governo che fondamentalmente sta diminuendo i salari ai ceti popolari, ai più poveri, togliendo reddito di cittadinanza, non dandoci niente, anzi, corretto la questione del 2%, che alla fine questa decontribuzione ci va solamente a peggiorare le nostre condizioni, perché va a tagliare su alcuni istituti che sono anche importanti per i lavoratori dipendenti. Invece, giustamente, come voi sottolineate, stanno premiando i ceti più alti. La flat tax va a aiutare chi guadagna 88.000 euro, sappiamo benissimo che chi fattura 88.000 euro in Italia ne fattura almeno il doppio. Detto questo, io penso che questa manifestazione sia politica. Questa manifestazione punta anche a creare veramente un polo politico, a aggregare tutti quelli che oggi combattono il governo Meloni dal basso e per i ceti popolari, per i lavoratori dipendenti. C'è la possibilità che si aggreghino altre forze, perché comunque Unione Popolare è presente, le forze di estrema sinistra ci sono, ma c'è la possibilità che si nasca un movimento che punti a diventare di massa dal 6 dicembre. C'è una prospettiva, se ne discute anche all'interno del sindacato? Beh sì, certo, la manifestazione del 3, così come anche lo sciopero del 2 dicembre, vuole favorire la possibilità di promuovere un vasto movimento popolare che si opponga alla guerra e allo stesso tempo rivendichi una diversa politica economica fondata sul rilancio del potere d'acquisto di salari e pensioni, sul sostegno all'economia pubblica e al sistema di welfare, che mette al centro poi il riconoscimento e la regolarizzazione dei lavoratori migranti, la difesa degli spazi di libertà e di agibilità democratica e un'autentica politica di conversione ecologica in difesa dell'ambiente e del territorio, e per cui non è più rinviabile alcun tipo di discussione. Il governo Meloni, chiaramente, anche insomma, guardando le scelte che sta facendo per quanto riguarda la legge di stabilità, indica quella che era una direzione che era assolutamente preventivabile, no? È un vero e proprio attacco ai poveri con la cancellazione nella sostanza del reddito di cittadinanza e qualche mancetta qua e là che assolutamente insufficiente, se non addirittura ridicola rispetto a quelle che sono le esigenze concrete di lavoratori pensionati, giovani e precari. Quindi noi ci auspichiamo naturalmente, auspichiamo che da questi 2 giorni di mobilitazione si possano costruire le condizioni per un grande movimento di opposizione sociale in questo paese, di cui ce n'è davvero bisogno. La guerra, le condizioni di vita, le libertà democratiche sono aspetti di un'unica grande questione da affrontare assieme. Terreni di azione sui quali costruire una piattaforma di rivendicazione, una sorta di manifesto comune. E mentre noi costruiamo lo sciopero generale e prepariamo la grande manifestazione nazionale di Roma del 3 dicembre, è ora di cominciare a darci un piano d'azione comune. Questo noi come USB non solo, diciamo così, lo auspichiamo, ma stiamo lavorando insieme anche alle altre organizzazioni di base alla riuscita di questo percorso. E ancora grazie per lo spazio e alla prossima, e buon lavoro e alla lotta per tutti. Guarda, vi ringraziamo, buon sciopero generale, e speriamo che riusciamo a buttarlo giù questo governo, che è servo dei padroni, lo sappiamo benissimo, e speriamo che possiamo cambiare le condizioni dei lavoratori dal basso, e con l'unione di classe le cose si possono fare. Grazie di nuovo, compagni. Finally know what it's like. like a brand new person. It's fine to stop before it's too late. In the new direction. Allora, avete appena ascoltato un altro bellissimo pezzo di Laura Mvula, Same Old Mistakes. Ora, Domenico, che abbiamo intervistato, ripeto, dell'USB Emilia Romagna, lui si occupa, è un funzionario sindacale, ci ha raccontato e ci ha spiegato le ragioni dello sciopero del 2 dicembre. Uno sciopero, come ho detto all'inizio, dovuto. Abbiamo un governo che, come tanti che abbiamo avuto nel passato, però adesso questo termine mi fa ricordare tanto i tempi di Tremonti, no? Il Robin Hood al contrario. Certo, non è che Monti, tutti quelli che sono venuti dopo, Conte, fino a Draghi, abbiano fatto qualcosa per i lavoratori. Sappiamo benissimo, non siamo qui a sostenere questi governi, ma il governo Meloni è veramente imbarazzante dal punto di vista di classe, direi. Non si può nemmeno più parlare, non è mai esistita la destra sociale, è stata un'invenzione, ma è una destra ultra liberale e ultra destra. Siamo proprio peggio di quella trumpiana americana. Ecco perché lo sciopero degli insegnanti di base è importante. Purtroppo sarà uno sciopero di solo loro. Noi gli auguriamo che riesca il più possibile. È chiaro che siamo lontani da creare un movimento di massa sia sindacale che politico, ma questi sono gli inizi e speriamo che riescano a risvegliare i lavoratori, i cittadini italiani e dare i primi colpi, le prime piccole spallate ad un governo che veramente se ne deve andare. Il prima possibile è una lotta verso i padroni che sono anni che non la facciamo seriamente in maniera conflittuale e di massa. Ecco perché invito chiunque voglia andare alla manifestazione del 2 dicembre, la manifestazione del 3 dicembre a Roma, sarà una bella manifestazione anche importante per i contenuti. Io vi saluto e sperando di insorgere tutti quanti uniti, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!